Penso che Joe Biden ha già dato un commento molto interessante, no? Dicendo ai suoi propri attivisti, tipo, see what happened in Italy, come esempio delle destre e anche di una fetta di estrema destra al potere. Va anche detto che, tipo, nella stampa americana c'è una certa confusione tra chi vede, tipo, i nipotini del Duce che subito tornati al potere, facendo anche un po' un certo allarmismo, però ci sono anche tipo, diciamo, tendenze in questo fenomeno anche molto simili a ciò che si vede nel Partito Repubblicano americano di oggi, no? Tipo, se si pensa che in Italia c'è anche chi dice che Meloni non sia così estremista proprio perché è un ospite di CPAC, però anche il CPAC negli Stati Uniti c'è anche tipo Marjorie Taylor Greene, ci sono anche tanti complottisti e fascisti di questo tipo. Quindi penso che nella stampa americana c'è soprattutto un po' di e soprattutto se si paragona la stampa americana a quella inglese, direi che quella americana è molto più preoccupata e anche molto più colpita dai toni estremisti e razzisti del discorso di Meloni. Però c'è un paradosso, forse una provocazione, però, che negli Stati Uniti al congresso ci sono i socialisti, in Italia il Parlamento no. Però è anche un po' strano, nel senso che nel dibattito americano c'è anche questa tendenza a vedere l'Italia tra le lenti della politica americana, no? Quindi c'è anche tipo il deputato repubblicano che dice, ah ma tipo Meloni ha vinto perché gli italiani non tollerano più il governo socialista di estrema sinistra di Mario Draghi, no? Quindi sì, diciamo che nel caso americano c'è anche questa polarizzazione tra i due campi della politica, anche dentro il Partito Democratico Americano c'è questa nuova sinistra socialista che non esiste in Italia. È anche vero che ci sono dei candidati interessanti neoeletti alla Camera e al Senato, no? Anche in Italia, però sì, direi che dal punto di vista americano mi sembra che l'Italia e il contesto attuale italiano può sembrare molto desolante e un po' il buio, ma dal punto di vista della destra americana no, tipo c'è anche chi ha visto forse Meloni per la prima volta e c'è tutto questo discorso della tipo della giovane di background operaia o popolare, diciamo, che subito è diventato una star della destra internazionale, no? Anche in Inghilterra, no? Ad esempio Alison Pearson è una giornalista che lavora per The Daily Telegraph, un giornale conservatore, no? Ha detto, ma questa signora non è di estrema destra perché io sono d'accordissimo con tutto il suo discorso, no? Quindi è ovvio che in generale c'è un crollo o una erosione delle barriere tra l'estrema destra e la destra tradizionale, anche nei partiti conservatori più storici e tradizionali, e l'ascesa di Meloni è, diciamo, un nuovo stadio di questo processo storico che abbiamo visto negli ultimi anni. Secondo te dobbiamo aspettarci questo processo anche in altri paesi europei? Sì, ovviamente c'è anche l'esempio molto recente delle elezioni in Svezia, no? Tipo 2 settimane fa, democratici svedesi diventati il perno della coalizione di cosiddetto di centrodestra, ma anche tipo in Francia, no? Tipo non ci sono accordi formali tra i repubblicani, il vecchio partito gaullista, e quelli di estrema destra, ma ovviamente c'è anche chi, anche nella figura di Eric Zemmour, vuole concretizzare queste alleanze anche nel partito repubblicano. C'è anche tipo Eric Ciotti, ci sono dei leader del partito che si aprono un po' a questo tipo di alleanze, no? E diciamo che nel neoeletto Parlamento francese anche il partito di Le Pen, Rassemblement National, non è visto quale così estremista, è stato già stoganato un po', quindi è ovvio che l'Italia è un po' il modello perché è da 30 anni che i postfascisti partecipano alla coalizione cosiddetto di centrodestra, anche in Francia non esiste ancora, in Spagna un po' sì, ovviamente anche Orizzonte 2023 c'è l'alleanza con Vox e il Partito Popolare, quindi sì, penso che sia un processo storico e anche un risultato non solo di un periodo di tante crisi, ma anche il venir meno della vecchia identità antifascista, o diciamo che non condiziona più le destre.